I principi. Il giorno prima della partenza la Vialli riunì tutti in aula. Sembravano una scolaresca in fibrillazione per la prossima gita. Gli insegnò dei canti, crearono delle belle polifonie, li fece cantare a lungo. Erano i bambini destinati al pianeta Terra. Inaspettatamente entrò in aula Gabriel, si fermò accanto alla Via per ascoltare il canto. La Via se ne accorse immediatamente. L'ha puntato, disse a bassa voce, assicurandosi però che Gabriel la sentisse. Lo sguardo di Gabriel si era subito posato su André, lo fissò per tutto il tempo. Cos'è? Sorrise ironicamente la Via, hai deciso di rovinargli la vita? Anche Gabriel sorrise. Direi di no, le rispose prendendo un tamburo e indirizzandosi verso André gli disse, tieni suona questo e continua a cantare. André improvvisò un ritmo dal sapore tribale e una bella melodia soave. Poco dopo tutti gli altri istintivamente seguirono il suo canto. Gabriel si illuminò di gioia, la Via lo guardava sempre più incuriosita. Qual è il tuo piano? Gli chiese guardando André. Mi serve, rispose Gabriel, gli altri possono partire, lui rimane con me. Appena André terminò il suo canto la Via richiamò l'attenzione di tutti. Potete uscire, tu, rivolgendosi ad André, seguì lui, indicando Gabriel. I ragazzi andarono via, André raggiunse Gabriel che gli tese una mano. André appoggiò la sua mano in quella di Gabriel che la strinse sorridendogli. E lo portò via con sé. Lo condusse subito nella sala della musica dove i musicisti si riunivano ogni giorno per comporre nuove melodie, nuovi ritmi, nuovi suoni. André fu accolto da una serie di ciao André, gli sembrò che proprio tutti lo stessero aspettando. Canta seguendo quello che suono io, disse Gabriel ad André. Gabriel prese un violino e iniziò a suonare, André non ebbe nessuna difficoltà a cantare, poco dopo si unirono gli altri musicisti, la sala si riempì di musica. André si divertì molto. Per diversi giorni André fu impegnato con i musicisti. Gabriel gli ordinava dei compiti che lui svolgeva senza difficoltà. Spronandolo sempre più frequentemente a comporre da solo sue melodie. Oggi cosa facciamo? Chiese André. Andiamo da Raphael, rispose Gabriel, imparerai cose molto utili, cerca di memorizzare tutto quello che gli vedrai fare. Quando arrivarono al laboratorio, Raphael li accolse abbassandosi e puntando le mani sulle ginocchia per scendere all'altezza del bambino. Chi mi hai portato questa volta? Chiese Allegro. André si avvicinò a Raphael incuriosito dalla sua lunga treccia che era scivolata in avanti mentre si era chinato. Che bella, disse ammirato, la voglio anche io una traccia così. Non è difficile, basta non tagliare i capelli, disse Raphael facendo l'occhiolino a Gabriel. Io vado, disse Gabriel facendo cenno di allontanarsi. Ma poi torni? Chiese André. Tra qualche giorno, rispose Gabriel, rimarrai con Raphael. Ma poi torni, insistette André. Certo, lo tranquillizzò Gabriel sorpreso dall'ansia di André. Non ti preoccupare non ti abbandona, ridacchiò Raphael prendendo il viso di André tra le mani. Raphael non insegnò niente ad André, semplicemente lavorava con André accanto. Era il suo metodo? Nei laboratori di Raphael c'erano tantissimi allievi e assistenti, André non distingueva la differenza, notò immediatamente quanta serenità Raphael infondeva su tutti, malgrado la mole e il ritmo serrato di lavoro, si respirava un'aria allegra, tutti ridevano, scherzavano, si facevano dispetti. Per André era esaltante seguire gli esperimenti, si passava da silenzio e concentrazione sacrale ad un entusiasmo simile al tifo da stadio. Se invece gli esperimenti non avevano l'esito sperato o addirittura negativo, alzavano le spalle come se niente fosse. Se le cose vanno male vuol dire che andrà bene la prossima volta, se le cose vanno bene vuol dire che hai imparato una cosa nuova, disse Raphael ad André. André senza accorgersene imparò a realizzare moltissimi medicamenti, a coltivare piante e fiori. Raphael lo faceva parlare tanto. Quel giorno si trovavano nella serra intenti a piantare bulbi e staccare le foglie in eccesso ad altre piantine. Ti trovi bene con Gabriel? Gli chiese. Sì, mi fa cantare, mi fa anche scrivere poesie. Ti piace? Sì tanto. Mi piace quando lui suona il violino e io canto. Raphael sorrise. Cos'altro ti piace fare? Scrivere i pensieri alla fine della giornata, lui li legge sempre. Hai un diario? No, sono lettere. Ti fa scrivere delle lettere? Sì, delle lettere, tutte le sere scrivo una lettera, a mano, su un foglio, uno solo, il giorno dopo lui la legge e poi con quel foglio mi insegna a fare delle figure. Mi ha detto di pensare a lui ogni volta che scrivo. Allora tu dovrai mantenere questa abitudine anche quando vivrai sulla Terra. La sera, prima di andare a dormire, dovrai scrivergli una lettera, per raccontargli i tuoi pensieri. Rafael prese un gelsomino. Tieni, questo è il suo fiore. Ti faccio vedere una cosa. Rafael avvicinò a sé Andrea accennando ad un piccolo gesto nell'aria. Si formarono due cerchi d'oro che si intersecarono tra loro creando al centro dell'intersezione uno spazio, simile ad una mandorla, illuminato da una bellissima luce bianca. «Cos'è?» esclamò André meravigliato. «Vieni», disse Rafael prendendolo per mano. Attraversarono la luce bianca e si ritrovarono davanti ad una vasca circolare colma di acqua chiara che invitava a tuffarsi, e infatti c'erano alcuni bambini come lui che si tuffavano, ma con un certo sconcerto André notò che nessuno tornava in superficie, sembravano fossero stati tutti inghiottiti dall'acqua. «Dove sono finiti?» chiese a Rafael. «Nella loro nuova casa, anche tu ti tufferai e così che arriverai sulla terra. E quando?» «Lo deciderà Gabriel, ma non credo manchi molto». André si avvicinò alla vasca e immerse una mano nell'acqua, era fresca, invitante. «Com'è?» chiese Rafael. «Bella», rispose André. «Apri la bocca e tira fuori la lingua». André obbedì. Rafael fece comparire una sottile cialda romboidale e la posò sulla lingua. «Appiccicosa», ghignò André, «cos'è?» «Anticorpi, ti serviranno per non ammalarti mai». Poi gli prese la mano sinistra e dal centro vi incastonò un diamante. Che scomparve immediatamente. André non chiese nulla, ma guardò Rafael con stupore. «Sulla terra la vita è molto dura, tu non puoi ammalarti e non devi trovare difficoltà». «Sei gentile», disse André meravigliato. Quando mio fratello tornò a riprenderlo André gli raccontò tutto quello che aveva imparato, come aveva passato il tempo, di quanto Rafael fosse premuroso. «Gabriel lo portò anche da me, cosa più unica che rara, nel mio clan non ci sono allievi. Decise di portarlo da me perché sapeva che eravamo impegnati a progettare nuovi modelli di motociclette proprio per il pianeta Terra, dove continuavano insistentemente a utilizzare motori a scoppio, benzina, e, solo raramente nei casi più futuribili, l'elettricità. Preistoria. Anticaglia. Come arrivarono André rimase affascinato da come lavoravamo. Alcuni disegnavano, ma tutti gli altri realizzavano modelli elaborando dati matematici, e per lui era stupefacente vedere apparire e sparire le moto dal nulla, come per magia. Gabriel lo spinse in avanti incitandolo ad unirsi a noi. Io lo accompagnai davanti ad un Harley Davidson Cruiser Softail Standard. Gli assegnai subito il primo suo compito, smontare pezzo per pezzo la moto, catalogare ogni parte e riassemblarla. Lo so che può sembrare un lavoro titanico, sproporzionato, ma credetemi ha un suo perché. André rimase con noi un po' di giorni, si interessò anche ai progetti. Che sicuramente erano più divertenti di smontare e rimontare una moto. L'ultimo giorno della sua permanenza passò a trovarci Michael. Trovò André seduto a terra a lucidare una moto Guzzi V11 Sport. «Tu saresti il tutologo», ridacchiò scompigliandogli i capelli. André si voltò per guardarlo, ma anche se provò a non togliere l'attenzione dal suo lavoro la figura Michael lo catturò, i suoi occhi chiarissimi magnetici, i capelli biondi che cadevano sulle spalle e sulla schiena con ciocche di lunghezze tutte diverse, selvatiche, la lunga gonna rossa che indossava, che si accordava ai suoi movimenti nervosi, e gli stivali neri che scandivano i passi. Michael lo ipnotizzò. «Gli piacciono le moto», dissi io. «Ma qualcuno ti ha insegnato a cucinare?» chiese Michael ad André sedendosi sulla poltrona dietro una delle scrivanie. Uriel, seguitò rivolgendosi a me indicando André, «non deve andare sulla terra?» «Non contare su di me», risposi guardando André, «non ho nessun interesse per la gastronomia». «Almeno Rafael. Tra una tisana e un decotto», insistette Michael. «Ti sei impuntato sulla cucina?» ridacchiai. «Se impari a cucinare», proseguì Michael rivolgendosi ad André, «sulla terra ti si aprono tutte le porte». «Lo avete accerchiato», disse Gabriele entrando nella sala, «imparerà da solo quando servirà». Concluse appoggiandosi sulla scrivania davanti alla poltrona dove era seduto Michael. Partì una musica ritmata molto aggressiva ad altissimo volume. «Cos'è?» Michael guardandosi intorno, «siamo in discoteca?» «Facciamo pausa», risposi io. Mi avvicinai ad André e gli feci indossare dei sandali con grosse molle sotto la pianta. Li indossammo io, André e tutti i miei assistenti. Gabriel rideva divertito, Michael mise le mani sulla fronte sbigottito. Un altro fratello matto, sospirò appoggiando i gomiti sul tavolo e facendo scivolare le mani sulla testa. Ma senti che baraonda, disse cercando complicità in Gabriel, che però non poteva trovare perché a Gabriel gli è sempre piaciuto il mio clan, il più eccentrico di tutti. Ballammo come dei forsennati saltando sulle molle. Io insegnai ad Andrea a fare salti, la ruota, la verticale, a camminare sulle mani. Si stancò parecchio, ma quanto si divertì.